Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuova scossa questa mattina e nuovi crolli nei comuni già colpiti dal sisma. Container entro Natale, promette Renzi a chi vuole rimanere in tenda vicino alle case. Si valutano i danni, l'80% delle abitazioni nelle zone più colpite sarebbe inagibile. Ad Ussita si raggiunge la totalità delle case sfollate in viaggio verso la costa. Partigiana, prima donna ministro, presidente della commissione d'inchiesta sulla P2, è morta Tina Anselmi, la sua firma sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Un nuovo sondaggio di ABC e Washington Post da Trump in vantaggio sulla Clinton, sarebbe al 46%. Lo staff di Hillary attacca l'FBI, due pesi e due misure. È stato esonerato l'allenatore dell'Inter De Boer, voci su Pioli come sostituto. Sarà il mister della primavera, Vecchia, a guidare la squadra contro il Southampton. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo in diretta anche oggi, giorno di festa, e anche oggi, come sempre, ci potete contattare al 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, oppure su effettogiorno@radio24.it. In apertura, anche oggi il terremoto, iniziamo con la cronaca dal territorio e ci colleghiamo con Raffaella Calandra, la nostra inviata, che si trova oggi a Civitanova Marche, dove stanno arrivando molti degli sfollati dopo quest'ultima scossa, quella delle 7:40 di due giorni fa. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Sì, in questo lungo cammino che mi abbiamo raccontato nei vari GR, in questo momento appunto mi trovo sulla costa a Civitanova Marche, uno dei comuni insieme a Porto Sant'Elpidio e a Porto Recanati, dove sono arrivate migliaia di persone che sono state sfollate dai paesini dell'interno. E qui io mi trovo in questo momento nell'hotel Miramare, sul lungomare, che raccoglie e ospita un nutrito gruppo appunto di sfollati, soprattutto dai comuni di Camerino, Pieve Turina, Campi, persone soprattutto anziane che devo dire in questo momento si sentono particolarmente disorientate. Ho incontrato alcune di queste persone nella hall dell'albergo, in questo momento stanno mangiando, e anche se sono consapevoli e contenti anche della grande solidarietà che stanno avendo, soprattutto hanno un disorientamento rispetto alla mancanza delle loro amicizie, delle loro cose, e però si creano anche situazioni di amicizia e di sostegno reciproco tra persone che non si conoscevano. In particolar modo una signora di Camerino è stata tra quelle più, diciamo, che si sente maggiormente disorientata, perché la sua casa è distrutta e la sua famiglia è sparpagliata in altri comuni qui lungo la costa, e quindi avverte il disorientamento della solitudine. Possiamo sentirla. C'è una rietta tanto buona lungo il mare, quanto è bella, ma non c'è più niente, tutti disperata, io non ne faccio più. Deve pensare che io non comunque sono abituata a stare in un ristorante, a fare una vita in questa maniera, ma da quando sono venuta non mi capisco più, non riesco a trovare più niente, casa mia mi ha finito tutto, non c'è più vestiti che porto, me l'hanno prestato, è giusto che si possa fare questa vita. Questo il quadro dunque, Raffaella, anche doloroso di chi è stato costretto a lasciare la sua casa, in particolare gli anziani. E che cosa hai trovato in questo viaggio dalle zone dell'Umbria colpite appunto alla costa? È stata una sorta di via crucis del terremoto il percorrere questa statale di Valchienti, perché ogni fermata rimandava ad un paese distrutto. Ho trovato soprattutto la distruzione di Ussita, il paese dove le case ora sono completamente distrutte, dove nessuno più abita nel paese. Mi diceva il sindaco che sono rimasti al massimo in 10 persone, lui compreso, e sono tutti allevatori. La comunità si è interamente spostata su Porto Sant'Elpidio, sulla costa, il sindaco fa avanti e indietro, e anche la scossa di questa mattina ha provocato ulteriori danni qui come anche a Sant'Angelo. A Tolentino, poi più avanti, una cittadina medievale lungo la stessa strada, ci sono molte, stanno aumentando le transenne intorno alla Ponte del Diavolo che è stato chiuso, intorno alle case che sono, alcune delle quali sono crollate, e qui c'è stata anche una polemica iniziale perché il comune non era stato inserito inizialmente nel cratere del sisma, ma i danni sono molto forti e soprattutto stanno aumentando anche con queste altre scosse che ci sono stati in questi giorni, fino ad arrivare appunto alla costa, dove ormai bisogna arrivare per trovare le persone dei paesi che abbiamo visitato in questi giorni e che ora sono svuotati dei loro abitanti. Ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra. Dunque, fin qui la cronaca dal territorio delle zone colpite, ma vediamo di fare anche un quadro generale con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone, lo abbiamo raccontato anche nel corso della mattinata, la terra continua a tremare fra Umbria e Marche, un centinaio di repliche sono state registrate soltanto la notte scorsa e poi c'è stata questa nuova forte scossa poco prima delle 9, magnitudo 4.8 con epicentro nel Maceratese a 10 km di profondità nel sottosuolo. La paura naturalmente è stata molta e ci sono stati anche nuovi crolli nei centri già duramente colpiti dal terremoto, come a Norcia, a Visso, a Castel Sant'Angelo sul Nera e a Ussita. Pensa che, stando agli ultimi rilievi nell'area del cratere sismico, circa l'80% degli edifici sarebbero ormai inagibili perché crollati o, nel migliore dei casi, se così possiamo dire, lesionati. La priorità comunque in queste ore resta quella di dare assistenza agli sfollati, lo sentivamo, sono migliaia, alcuni hanno accettato di trasferirsi negli alberghi della costa, ma molti altri dobbiamo dire che chiedono invece di restare nei loro paesi, vicino a quello che resta delle loro case o delle loro attività. Il governo, d'accordo con la Protezione Civile, ha deciso di non inviare tende, un'ipotesi che è stata scartata per il freddo. Il premier Renzi però ieri ha assicurato che prima di Natale arriveranno i container per ospitarli. Si tratterà di una soluzione temporanea in attesa delle casette di legno che, ha assicurato il Presidente del Consiglio, saranno pronte entro la primavera. Simone. E grazie anche ad Andrea Viali per questo aggiornamento. Non ci fermiamo qua con le cronache dal territorio colpito dal terremoto nel nostro giro per l'Italia. Più avanti torneremo a parlare anche della situazione delle aziende. Si sta cercando di fare qualche stima di danni con grande difficoltà. Ci sono aziende anche importanti o quantomeno note, completamente distrutte. Ci arriveremo tra poco. Intanto andiamo alle altre notizie, iniziando dalla morte di Tina Anselmi a 89 anni. I funerali saranno venerdì a Castelfranco Veneto. Tina Anselmi ha attraversato e fatto la storia d'Italia degli ultimi 70 anni, a cominciare dalla sua esperienza come partigiana. Con il nome di battaglia di Gabriella diventa staffetta della brigata Cesare Battisti. Poi, sempre nel 1944, si iscrive alla Democrazia Cristiana. Da lì inizia un impegno politico ininterrotto. Nel 1976 fu la prima donna ministro del lavoro e della previdenza sociale, in uno dei tanti governi Andreotti. Ho piacere come donna e come primo ministro donna di avere proprio questo ministero, che forse nel cliché che si stanno abbattendo è il meno tradizionalmente femminile. Poi ancora fu ministro della Sanità e legò il suo nome alla riforma che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale. Nell'81 fu invece nominata presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Fra i primi commenti, quello del premier Renzi: con Tina Anselmi scompare una figura esemplare della storia repubblicana, un grande esempio di cattolica impegnata in politica e donna delle istituzioni. Con Tina Anselmi se ne va una madre della democrazia italiana, scrive invece la presidente della Camera Boldrini. Il commento di un'altra donna, il ministro delle riforme Maria Elena Boschi: Tina Anselmi si è impegnata per conquistare nuovi diritti per tutte e per tutti, ricordandoci che nessuna conquista è definitiva. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo un passaggio dell'intervista che Tina Anselmi rilasciò a Daniele Biacchessi. Tina Anselmi, le rivolgo l'ultima domanda. Di quale Italia è stata testimone una come lei, che ha contribuito al ritorno della democrazia nel nostro paese? La democrazia esige che ogni giorno noi abbiamo consapevolezza della nostra responsabilità. La democrazia cresce se ciascuno di noi partecipa alla vita democratica. La democrazia non è un regalo, è un impegno, e quindi noi dobbiamo questo impegno viverlo, perché solo se i cittadini sentiranno che la democrazia è il bene, è lo strumento attraverso il quale possiamo migliorare la vita del nostro paese, solo se tutti portiamo il nostro contributo a che questa vita migliori. E perché migliori non è che occorre l'uomo forte, la politica migliora se ciascuno di noi porta il suo contributo. Diceva Kennedy: nessun cittadino è inutile, bisogna che tutti portino il loro contributo, il mio augurio è proprio questo. Ci spostiamo all'estero, tra Iraq e Siria, dove proseguono le battaglie per Mosul ed Aleppo. Sfondate ieri le linee dell'ISIS nei sobborghi orientali, le truppe speciali irachene stanno cercando oggi di avanzare verso il centro città. Non è facile. Ian Pannell della BBC, che è con loro, testimonia di una violenta resistenza. Del resto, si stimava che in città fossero asserragliati dai 3 ai 5.000 miliziani dell'ISIS. Della composita coalizione a guida americana che sta combattendo a Mosul fanno parte anche le truppe curdo-irachene addestrate dai militari italiani. Sono orgoglioso del lavoro fatto, commenta il generale Ristuccia, comandante del contingente italiano in Iraq. Altri curdi, quelli dell'ala siriana del PKK, in un'altra coalizione, quella tra Mosca e Damasco in Siria, stanno comunque attaccando postazioni jihadiste a nord di Aleppo, verso il confine turco. Il processo diplomatico per un vero cessate il fuoco nella città siriana però intanto non fa progressi. Per tanti motivi, compresa l'incapacità, ha ammesso il segretario di Stato americano Kerry, di convincere i legittimi oppositori del presidente Assad della necessità di smarcarsi definitivamente dai gruppi jihadisti con cui combattono ad Aleppo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. A proposito di terrorismo islamico, parla oggi Andrew Parker, il capo dell'MI5, i servizi segreti interni del Regno Unito, in un'intervista in esclusiva al Guardian, forse la prima in assoluto ad un giornale. Dice Parker, ci saranno attentati terroristici di matrice islamica in Gran Bretagna, e ha aggiunto che negli ultimi 3 anni l'antiterrorismo ha sventato 12 attacchi contro bersagli del paese. Tra poco torneremo all'estero e vedremo che cosa ci dicono i sondaggi sulla lotta per le presidenziali tra Trump e Clinton, ma prima ci occupiamo di finanze, ci occupiamo di Monte dei Paschi. In questo momento in borsa guadagna l'1,11% dopo una fiammata questa mattina. A quanto pare Marco Ferrando del Sole 24 Ore è stato definitivamente dismesso il piano Passera, no? Sì, buongiorno Simone. Così questa mattina Corrado Passera ha inviato una lettera a tutti i consiglieri di amministrazione del Monte, che si riuniranno domani, dichiarando appunto che la sua offerta, quella presentata 2 settimane fa, era da considerarsi ritirata. È un ritiro con polemica, nel senso che l'ex amministratore delegato di Intesa dice che in sostanza la banca non gli ha messo a disposizione i dati che aveva chiesto e necessari perché i fondi che dichiarava di avere alle spalle potessero investire 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, appunto facevano parte del piano, il cosiddetto piano B. C'è da dire che mentre nei giorni scorsi, dopo la presentazione del piano, il titolo aveva corso moltissimo, addirittura raddoppiando il valore in pochi giorni, oggi, come dicevi giustamente, non c'è stata una reazione negativa, anzi il titolo sostanzialmente tiene. Evidentemente il mercato guarda anche quello che sta facendo l'amministratore delegato Morelli, che in giro per il mondo, di ieri la notizia che è stato in Medio Oriente a presentare l'aumento di capitale, oggi a New York e nei prossimi giorni sarà in Estremo Oriente, quindi Singapore e Hong Kong. E grazie Marco Ferrando, come sempre alle 13.30 poi sentiremo con i colleghi di Radio Cori il Sole 24 Ore un punto generale sui mercati, non solamente MPS. Vi anticipo che le borse sono piuttosto piatte, Milano guadagna lo 0,07% sul FTSE MIB e lo 0,03% sul FTSE All Share. L'America dunque e i nuovi sondaggi che danno in vantaggio Trump. Donald Trump 46%, Hillary Clinton 45%. Per la prima volta dal maggio scorso il tycoon newyorkese è davanti all'ex First Lady in vista delle presidenziali USA dell'8 novembre. Le intenzioni di voto sono state raccolte da ABC News, Washington Post tra il 27 e il 30 ottobre, quindi anche dopo le ultime rivelazioni sull'email gate, e il margine di errore è di circa il 3%. Un sondaggio di poco precedente, condotto da Reuters Ipsos tra il 26 e il 30 ottobre, dava la Clinton al 44% e Trump al 39%. La settimana precedente l'ex First Lady aveva un vantaggio di 6 punti. Dunque, ad una settimana dal voto, la sfida è più che mai aperta, con i responsabili della campagna della candidata democratica convinti che siano i russi ad interferire per agevolare l'ascesa di Trump. L'FBI usa in modo sfacciato 2 pesi e 2 misure, ha tuonato il capo dello staff della Clinton, Robbie Mook, dopo la diffusione della notizia che il capo dell'FBI, James Comey, non vuole rivelare nulla sulle interferenze della Russia nelle elezioni perché troppo vicini al giorno del voto. Secondo la CNBC, nel documento che il direttore dell'FBI si rifiutò di rendere pubblico il 7 ottobre, si diceva che l'intelligence USA è convinta che Mosca abbia diretto i recenti attacchi hacker contro mail di cittadini e istituzioni americane al fine di interferire con il voto. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Prima tappa del viaggio per i 500 anni della riforma luterana. Il Papa chiude oggi il suo viaggio in Svezia. L'unità dei cristiani è una priorità. È stato questo il filo conduttore del breve ma decisivo viaggio del Papa in Svezia. Un'occasione, ha ricordato Francesco, per superare le divisioni storicamente perpetuate da uomini di potere più che dalla volontà dei fedeli. Nei due appuntamenti ecumenici, nella cattedrale di Lund e poi a Malmö Arena, Francesco ha invocato il perdono reciproco, sottolineando l'esperienza spirituale di Lutero e rivalutando definitivamente le intenzioni che mossero la riforma. Durante la messa, sempre a Malmo, con la comunità cattolica, ha indicato la mitezza dei santi come sostegno verso il cammino di unità. E se sul piano teologico restano ancora le distanze, il sigillo messo con questo viaggio sui 50 anni di dialogo tra le due chiese mostra l'essenzialità di guardare avanti e lavorare insieme, proprio come fanno su diversi terreni cattolici e luterani nella Svezia secolare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio: Frank De Boer, allenatore dell'Inter, è stato esonerato. Stefano Vecchi è stato preallertato dall'Inter ed è atteso ad Appiano Gentile, il tecnico della primavera, guiderà la squadra nella trasferta contro il Southampton. In attesa della scelta definitiva si fa il nome di Stefano Pioli. Intanto si riflette però sulla gestione di tutta la vicenda da parte della società. È un momento strano, mai vissuto prima per il calcio italiano. L'Inter di allenatori ne ha cambiati a grappoli, 9 negli ultimi 6 anni, anche prima dei cinesi. Ci sta che un tecnico che perde una partita su due sia ringraziato e licenziato. Quello che però non ci sta, ed è il segno dei tempi, è questa incapacità di gestire una situazione sì difficile, ma non così rara nel calcio. Il problema sta in queste nuove proprietà, lontane migliaia di chilometri, che si muovono come elefanti nella cristalleria in un mondo totalmente alieno. Il calcio è un'alchimia strana, fatta di cose dette e non dette, di conoscenze sul campo, di sentimenti e passioni. Lo sfogo di Tronchetti Provera contro Sunin, non si guida una società da Giacarta, tocca un nervo sensibile, già avvertito con forti danni dalla Roma di James Pallotta e dal Milan, all'ultimo passo prima del closing coi cinesi. Rimpiangere il passato è inutile. Il calcio, come tutto il mondo dello sport, è un grande mercato ormai globalizzato. Servono nuove idee, nuove regole, nuove filiere societarie. Mettiamola così: oltre al patentino per gli allenatori, ci vuole anche un patentino per i presidenti. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso il traffico, poi iniziamo come sempre il nostro giro per l'Italia, e lo inizieremo dall'Umbria, dove cercheremo di capire quali valutazioni sui danni si possono fare per le imprese. Parleremo tra l'altro con un'imprenditrice che ha avuto le sue strutture distrutte. Il prosciutto che produceva e che produce vicino a Norcia è finito anche sulla tavola di Obama e di Michelle. E poi ci occuperemo di violenza sulle donne. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del terremoto, abbiamo fatto un punto generale, abbiamo parlato della morte di Tina Anselmi avvenuta questa mattina, del nuovo sondaggio di ABC e Washington Post che dà in vantaggio Donald Trump, e poi, come avete sentito, abbiamo parlato anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo dalle zone colpite dal nuovo sisma che due giorni fa ha squassato soprattutto l'area di Norcia, della Valnerina, ma naturalmente ha colpito anche le Marche. Alle 7.40 si diceva una scossa 6.5 di magnitudo. E facciamo anche un punto su quello che sta succedendo alle imprese. Voglio salutare innanzitutto Valentina Fausti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. È un'imprenditrice, la sua azienda è la Maiale Brado di Norcia. Il prosciutto che viene fatto da loro è andato anche sulla tavola della Casa Bianca. E adesso le cose come stanno? Adesso diciamo che siamo rimasti, dopo il sisma del 24, senza la casa e senza la stalla, e dopo il sisma invece dell'altro ieri siamo rimasti anche senza il laboratorio dove lavoravamo, diciamo, le nostre carni per dare dei prodotti sia freschi che stagionati, come il prosciutto che ha vinto come miglior prosciutto al mondo alle Olimpiadi del 2012 a Londra, e i risalumi che sono andati a finire alla Casa Bianca per il G20 e con quelli che ci abbiamo fatto l'apertura di Expo l'anno scorso a Villa Lario. Quindi tutto distrutto, anche il laboratorio? Tutto distrutto, in pratica diciamo senza nulla. Con qualche speranza magari di ricominciare. E a cosa sono legate queste speranze adesso? Sinceramente a niente, però noi ci crediamo, sinceramente quel territorio ci ha dato molto, prima ci ha dato molte soddisfazioni, siamo riusciti a diventare quello che siamo anche comunque sia grazie al territorio, perché se non avevamo un territorio di quel tipo non avremmo potuto allevare i maiali in questa maniera, non avremmo potuto stagionarli in quella maniera, e quindi noi siamo fiduciosi, prima lui ci ha dato tanto, adesso ci ha tolto tutto, ma prima o poi ci ridarà tanto come ce lo ha dato in passato. Ho 22 siamo noi. 22 quindi... anni. Sì. Senta una cosa, avete già un'idea di come ricominciare, soprattutto quando ricominciare? Perché allora, poi tra l'altro diciamo questo, che... mi scusi, per spiegarlo anche agli ascoltatori che magari di maiali non sono pratici, questo sarebbe proprio il periodo. Sì, questo sarebbe il periodo, diciamo, clou per i maiali, dicembre-gennaio, poi specialmente per i nostri che vengono allevati al brado, mangiano la ghianda e il nocciolo, quindi diciamo che raggiungono il maggior apice, diciamo, di genuinità e bontà per la carne. Non abbiamo progetti al momento perché, ecco, è diciamo la notizia che è fresca fresca, quindi ancora non abbiamo neanche la lucidità per pensarci, però sicuramente non ci allontaneremo dal nostro territorio e troveremo mezzi diciamo che potranno mandarci avanti fino alla ricostruzione. Un'altra domanda importante, i vostri operai, le persone che lavorano con voi? Noi siamo un'azienda agricola di famiglia, quindi non abbiamo operai, quindi siamo io, mia madre, mio padre, il mio fidanzato e il mio fratellino piccolino. Oh, ok, quindi da quel punto di vista, diciamo, dell'eventuale fuga anche necessaria di chi lavora con voi, su questo siete abbastanza tranquilli? Siamo abbastanza tranquilli, sì. La ringrazio, grazie a Valentina Fausti per essere stata con noi. Vi siamo vicini naturalmente, così come siamo vicini a tutte le persone che hanno perso la casa e anche ovviamente a tutti gli imprenditori. A questo proposito voglio salutare Laura Tulli, presidente di Confindustria Umbria della sezione Spoleto Valnerina. Buongiorno Tulli e benvenuta. Buongiorno a voi tutti. Mi sembra che siano ore anche piuttosto confuse, no? Difficile fare una stima dei danni, addirittura difficile contattare i vostri associati. Assolutamente sì, purtroppo siamo ancora troppo vicini all'ultimo evento sismico, i danni non sono ancora stimabili e lei capisce che sono peraltro di non facile quantificazione, abbiamo abitazioni, imprese, attività commerciali, strutture ricettive in ginocchio purtroppo e una perdita incalcolabile di un patrimonio artistico e eccellenze che purtroppo anche la ragazza che ha parlato poc'anzi è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo e che sta passando purtroppo un momento di grande difficoltà. Che cosa servirebbe adesso, secondo lei, Tulli? Di cosa c'è bisogno, oltre evidentemente ad una ricognizione sui danni che inevitabilmente non può essere fatta adesso e avrà bisogno di tempo, no? Assolutamente. In questa fase credo che il primo step sia cercare sicuramente di risolvere i problemi, i disagi e la viabilità. Purtroppo abbiamo ancora molte strade interrotte e chiuse che creano sia disagi e vanno poi ad aggravare comunque una situazione infrastrutturale che era già in parte carente. Quindi sicuramente questa è la prima cosa a cui dobbiamo pensare. In secondo luogo dovremmo cercare insieme di capire come ripartire, perché è un territorio che deve assolutamente ripartire. Allora, speriamo, ecco, di trovare la forza tutti quanti di poter portare nuovamente gente nel nostro territorio e di ridare vita veramente ad un territorio che è di una bellezza e di una forza unica. La ringrazio, grazie Laura Tulli, presidente appunto di Confindustria, sezione Spoleto Valnerina, anche a lei va il nostro in bocca al lupo, come a tutti gli imprenditori e i cittadini di queste zone, delle zone tanto dell'Umbria quanto del Maceratese e delle Marche in genere, che stanno subendo i danni e i problemi, la gente che ha perso le case e naturalmente anche gli imprenditori. Dunque questo è il quadro per oggi dal terremoto, il nostro giro per l'Italia prosegue e ci porta in Campania. È una vicenda della quale avevamo già parlato, avevamo già trattato, è la vicenda di Carla Cagliazzo. La storia è questa, è la storia di una donna che il cui ex, folle di gelosia o per essere stato lasciato, sostanzialmente l'ha cosparsa di un liquido infiammabile e le ha dato fuoco. È in corso il processo a questa persona, ma nel frattempo lei ha deciso di scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dicendo che serve una sorta di nuova fattispecie di reato, quello che lei definisce l'omicidio di identità, perché lei, come Lucia Annibali, l'avvocata marchigiana che è stata sfregiata con l'acido dal suo ex, hanno subito esattamente questo, un vero e proprio sfregio alla loro identità. Caterina Sanfilippo, avvocato della Forza delle Donne, sta seguendo questa vicenda. Avvocato Sanfilippo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Anzi, bentornata ai nostri microfoni. Allora, ci dica che cosa c'è alla base di questo? Ma sicuramente c'è la volontà di vedere puniti determinati tipi di reato che in questo momento, secondo noi, non sono previsti dalla legge e puniti in maniera adeguata. E l'omicidio di identità è appunto una fattispecie di reato che nel nostro codice penale non esiste. Esiste in altri codici, Sanfilippo? Ma che noi sappiamo, per il momento no, sicuramente esistono legislazioni molto più dure che puniscono questi reati, insomma, con pene molto più severe, però in Italia no. Quindi l'omicidio di identità è proprio chi va a ledere quella che è l'identità di una persona che poi si vede la mattina, si guarda allo specchio e non si riconosce perché non ha proprio più i connotati, non ha proprio più il proprio volto. E questa è una cosa che non va assolutamente sottovalutata, perché Carla Cagliazzo è vero che è viva, però non è più se stessa. Mi sembra di capire, Sanfilippo, che più che, come dire, la previsione di una vera e propria aggravante, che pure secondo voi ci deve essere, o di una nuova fattispecie di reato, sia proprio il riconoscimento di qualcosa di diverso, cioè di far capire di rendere pubblico che nella mente di questi uomini c'è esattamente la volontà di annullare, di cancellare l'identità di una donna, no? Certo, certamente, sicuramente nella testa di queste persone c'è la volontà di annullarti come donna, perché ti sei, insomma, allontanata e quindi per questo non devi più esistere. Ed equivale anche un po', insomma, a dire per me, insomma, devi morire. La ringrazio, grazie Caterina Sanfilippo. Prego. Avvocato della Forza delle Donne, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre e poi ci ritroviamo. Parleremo col sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Abbiamo trattato spesso la vicenda degli insegnanti di sostegno che per gli studenti disabili, che in molte scuole non ci sono o non sono ancora arrivati. Che cosa è successo? È successo che il sindaco Orlando ha detto: io ho dovuto togliere dei soldi che normalmente mi servono per garantire il servizio di manutenzione di scuole e strade per dare agli insegnanti di sostegno. La regione adesso questi soldi me li deve ridare, e quindi che cosa ha fatto? Decreto ingiuntivo nei confronti della regione per farsi ridare 7 milioni di euro. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: c'è stata una nuova scossa questa mattina, nuovi crolli nei comuni già colpiti dal sisma. Arrivano dettagli adesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che parla di una deformazione che si estende per un'area di circa 130 chilometri ed il cui massimo spostamento è di almeno 70 centimetri nei pressi di Castelluccio. Si valutano i danni, l'80% delle abitazioni nelle zone più colpite sarebbe inagibile. Ad Ussita si raggiunge la totalità delle case sfollate in viaggio verso la costa. Renzi dice container entro Natale. Partigiana, prima donna ministro, presidente della commissione d'inchiesta sulla P2, è morta Tina Anselmi, la sua firma sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Un nuovo sondaggio di ABC e Washington Post dà Trump in vantaggio sulla Clinton, sarebbe al 46%. Lo staff di Hillary intanto attacca l'FBI, due pesi e due misure. È stato esonerato l'allenatore dell'Inter De Boer, voci su Pioli come sostituto, sarà il mister della primavera, Vecchi, a guidare la squadra contro il Southampton. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia dopo aver toccato l'Umbria o quella parte di Umbria piagata dal terremoto, essere andati in Campania, ci spostiamo a Palermo. E dunque il nostro giro per l'Italia va in Sicilia, siamo in linea con il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato ai nostri microfoni, sindaco. Allora, noi abbiamo trattato spesso da questi microfoni la vicenda dell'assenza di insegnanti di sostegno nelle scuole per gli studenti disabili, un'assenza che si è protratta e si continua a protrarre francamente per un po' troppo a lungo. Voi avete risolto in casa, per così dire, sindaco, prendendo soldi dal vostro bilancio e poi avete deciso di mandare un'ingiunzione alla regione per farvi pagare, ho capito bene? Esattamente così, il Comune di Palermo ha messo a posto i propri bilanci, la città metropolitana che io rappresento da alcuni mesi ha messo a posto i propri bilanci, ma siamo in una condizione di sofferenza e quindi non parlo per Palermo, parlo anche per Palermo, ma parlo per un sistema di autonomia in Sicilia che è al tracollo, decine e decine di città metropolitane, di città, di comuni e anche città metropolitane sono sostanzialmente ormai in default e questa condizione è stata rappresentata all'ANCI nazionale, Antonio De Caro, presidente dell'ANCI nazionale, su sollecitazione dell'ANCI Sicilia che io presiedo e rappresento, ha ritenuto essere nazionale la drammatica situazione delle autonomie in Sicilia e ha chiesto formalmente al governo nazionale, al governo regionale un incontro a tre con Governo nazionale, Governo regionale ed ANCI Sicilia per affrontare in un tavolo nazionale la drammatica situazione degli enti locali in Sicilia, una drammatica situazione che si collega ai tagli del Fondo di solidarietà nazionale. Sì. Basti pensare che per quest'anno è arrivato soltanto il 50% di quello che doveva essere erogato nel 2016 da parte del Governo nazionale, che sono ridotti a un terzo nell'arco di pochi anni le risorse che vengono dalla regione e come se non bastasse le città metropolitane e le province hanno subito l'anno scorso, quest'anno, il prossimo anno come le altre realtà del resto del paese un prelievo forzoso da parte del governo nazionale che è di centinaia di milioni di euro che poi vengono conferiti in un fondo e ripartito per fini di riequilibrio alle realtà dell'intero paese, esclude quelle siciliane, perché noi siamo a statuto speciale. Esatto, siamo una regione a statuto speciale. Noi non siamo a statuto speciale quando ci viene chiesto il prelievo delle risorse, diventiamo a statuto speciale quando deve essere erogata una parte di queste risorse. Sì. Ecco la ragione per la quale noi siamo trovati in una condizione drammatica che colpisce certamente le fasce più deboli, la spesa sociale. Il Comune di Palermo ha provveduto con risorse proprie, la città metropolitana con risorse proprie, ma abbiamo pensato che fosse doveroso ricorrere al TAR per far valere la illegittimità di questi provvedimenti. Di questi provvedimenti. Mi scusi, incostituzionalità questo prelievo forzoso in danno soltanto delle realtà siciliane. Mi scusi, sindaco. Tornando a bomba, sono 1300 gli studenti disabili a Palermo, questo mi sembra che sia il numero, e quindi da quel che ho capito quindi andate per avvocati con la regione, mi sembra di aver capito. Da una parte andiamo per avvocati con la regione, col governo nazionale, dall'altra parte la città di Palermo, la città metropolitana di Palermo e la città di Palermo, capoluogo, sono le uniche realtà che hanno fatto regolarmente iniziare questi servizi con risorse proprie a favore dei disabili, perché riteniamo che non si possa non garantire l'assistenza igienico-sanitaria, l'assistenza alla comunicazione e il trasporto dei studenti disabili. L'abbiamo fatto, però contemporaneamente abbiamo proposto ricorso perché la normativa dice che quando la regione delega, queste sono funzioni delegate alla regione siciliana, delega le funzioni deve dare anche le risorse. Sì. La regione ha delegato le funzioni ma non ha dato i soldi. E lei dice giustamente questi soldi li dobbiamo avere, che sono 7 milioni di euro, mi sembra di aver capito. No? Sono 7 milioni di euro soltanto per i disabili, ma il prelievo forzoso che ha fatto il governo nazionale è di 48 milioni di euro. 48 milioni di euro. Il prossimo anno 61 milioni di euro. 61 milioni di euro. Le faccio un esempio per tutti. Brevemente. La provincia di Enna ha subito quest'anno un prelievo di 12 milioni di euro con 8 milioni di euro garantisce il bilancio e i servizi sociali. E allora è un controsenso che ci sia un prelievo a favore di tutti, una distribuzione a favore di tutti tranne la Sicilia, in ragione di quella speciale autonomia che è diventata una vera e propria trappola per noi siciliani. La ringrazio, grazie Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo. Noi, prima di chiudere nel nostro giro per l'Italia, andiamo a Lucca per parlare di fumetti. Oggi si chiude Lucca Comics, fumetti che non sono più un fenomeno di nicchia ma hanno raggiunto il grande pubblico. Giovanni Russo, curatore di Lucca Comics and Games, la fiera in corso nella città toscana che termina oggi, ce ne parla insieme ad Adriano Palazzolo che ci ha raccontato Lucca Comics da là. Se vengono dal Giappone si chiamano manga, se arrivano dagli Stati Uniti diciamo comics, se invece ci si vuole dare un tono li chiamiamo graphic novel. I fumetti ormai non sono più una passione esclusiva di pochi o un fenomeno da ragazzini. Lo dimostrano anche i numeri di Lucca Comics and Games, che nel 2015 ha raggiunto i 400.000 visitatori e che quest'anno compie 50 anni. Ma cosa ha contribuito a dare nuova vita al fumetto? Lo spiega Giovanni Russo, curatore della manifestazione. Il riproporre appunto le migliori storie seriali in formato librario, il che permette ovviamente prima di darle una veste senz'altro più prestigiosa rispetto all'albo d'edicola, e soprattutto poi permette di averle sempre disponibili appunto a catalogo e non più appunto limitate alla periodicità della serializzazione. Ecco, questo è un passo avanti importante. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lucca. E per chiudere vi dico che oggi, come forse avrete già sentito anche da GR24 e non solo, è una giornata speciale che dedichiamo a Dylan Dog con il nostro appuntamento, appunto, che normalmente sarebbe il sabato. Oggi ce ne sono tre, alle 10, stamattina è stato, alle 15 e alle 18, appunto tre appuntamenti dedicati nella nostra rappresentazione radiofonica del fumetto di Dylan Dog. Il traffico, Mario Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.